Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci qua, Luca Tremolada, 16:33, la voce dell'innovazione, che non sono io, però sono le persone che ospita questa trasmissione. Noi ci colleghiamo direttamente a Taranto, che c'è Alessandro Longo. Buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno, oggi abbiamo qui Alessandro Longo perché lo vedo, sento scoppiettante, perché parliamo di Wi-Fi, pubblico, raccontiamo la difficoltà che c'è in Italia a trovare delle aree dove collegarsi a internet senza fili, ma prima le news. Le ricerche in tempo reale di Google ora includono anche una parte degli aggiornamenti delle bacheche di Facebook. Secondo TechCrunch, Facebook garantisce a Google l'accesso solo a 3 milioni di sue pagine, a fronte di 400 milioni di utenti in tutto il mondo, quelle legate a celebrità, politici, marchi aziendali o imprese locali, e non a quelle dei suoi utenti normali. Un modulo tutto italiano entrerà a far parte della Stazione Spaziale Internazionale in modo permanente. L'accordo in questo senso è stato firmato oggi tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la NASA. La nuova stanza della stazione orbitale si chiama Leonardo ed è uno dei 3 moduli logistici pressurizzati realizzati dall'Italia per la NASA. Sentenza Google. L'industria del social networking e di internet si schiera a favore del motore di ricerca. Il clima è da guerra di religione. E qui da noi si cerca di trovare una lettura politica, un po' facile a dire il vero, tra chi è a favore e chi contro la libertà su internet. Ma in attesa di leggere le motivazioni della sentenza che ha condannato 3 manager di Google per violazione della privacy, è bene ricordare che l'accusa è di non aver bloccato la pubblicazione di un video offensivo contro un minore. La sentenza di primo grado, lasciando cadere il reato di diffamazione, ha di fatto escluso che un provider o una piattaforma di file sharing è un editore. Quanto alla privacy, i manager quindi sono stati condannati in quanto giudicati consapevoli di non aver fatto tutto il possibile per garantire la privacy. Questo era un po' per mettere i puntini sulle i sulla questione di Google. Tra l'altro mi sembra doveroso, visto che Alessandro Longo, oltre a essere un autore, un collaboratore di Nova, è anche un super esperto di internet. Che idea ti sei fatto di questo caso? Beh, l'idea che mi sono fatto è che, come ha detto giustamente quello delle notizie, si è giusto. Che sono io quello delle notizie, comunque. E tu l'hai scritto, tu, bravo. Certo. Si è giunti molto troppo frettolosamente a dire, a sparare, la libertà di internet è sotto attacco, certo. Sì, tu leggiamo la sentenza. E poi vediamo. Ma noi, sai, ci piace andare un po', essere un pochino quelli che vanno a vedersi le carte, perché altrimenti diventa sempre il solito rossi contro neri, che è divertente ma fino a un certo punto. Come è assolutamente divertente e interessante la questione dell'internet senza fili. Noi ci siamo domandati come mai è così complicato andare in un parco, collegarsi a internet e, perché no, non pagare per navigare su internet. Ce lo siamo chiesti, ci siamo fatti delle domande, non ci siamo dati delle risposte, ma fa il punto nella scheda Alessandro Longo. Non è vero che gli Stati Uniti sono in tutto e per tutto la nazione più iperattenta ai problemi della sicurezza e del terrorismo. C'è infatti un aspetto in cui li battiamo, anche se non c'è da esserne fieri: la sicurezza sugli accessi internet da luoghi pubblici. In Italia c'è infatti una burocrazia senza pari rispetto ad altri paesi democratici a causa del decreto Pisano antiterrorismo del 2005. I suoi effetti dovevano essere provvisori, ma sono stati prorogati ancora una volta per tutto il 2010. I fornitori di internet devono identificare gli utenti tramite documento di identità, si legge nel decreto. In un primo tempo sono stati costretti ad ottenere fotocopia del documento, una procedura molto laboriosa contro cui i fornitori di internet si sono ribellati. Hanno ottenuto quindi un compromesso, comunque molto rigido rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Possono identificare gli utenti ottenendo da loro il numero di cellulare. Gli utenti possono inserirlo in un modulo sul web quando accedono a internet. Di recente ci sono state proposte di legge per eliminare quest'obbligo di identificare gli utenti, ma sono tuttora ferme nell'iter parlamentare. Allora, Alessandro, insomma, è kafkiano kafkiana la situazione, anche perché se appena superiamo il confine italiano sembra che sia tutto più semplice. Sì, all'improvviso si aprono porte meravigliose verso il futuro di internet e la libertà di navigare. Ora, non so se ti è capitato di recente di uscire dall'Italia, ma sicuramente sì, però a me di recente è capitato di andare a Praga in uno Starbucks, ma ce ne sono tantissimi ovunque, eccetto in Italia, e ti siedi, ordini il tuo caffè, quello che vuoi mangiare, accendi il computer o il cellulare, insomma, ormai è facilissimo navigare anche dai cellulari, e trovi la rete wifi e entri, basta, non devi mettere password, non devi mettere account, niente. Altro esempio, in Estonia, un paese che pochi sanno è uno tra i più evoluti in Europa, tra l'altro mi sembra che abbia il numero di, cioè gli estoni sono praticamente come la Lombardia, sono, cioè, non superano gli 8 milioni di abitanti, possibile? Sì, sono pochi ma molto, molto avanzati, sono molto vicini a Nord Europa come cultura, come diciamo attitudine verso le nuove tecnologie. Sappiamo che Skype è nato in Estonia. Certo. Tra l'altro, aspetta, da Andrea arriva già una segnalazione: in Trentino abbiamo il progetto Luna che copre le tre principali città, Trento, Rovereto e Riva del Garda, e funziona abbastanza bene, gratuita con buona copertura. Perché di fatto va detto, adesso poi racconteremo anche un po', a parte l'Estonia, i casi di italiani dove si riesce a navigare in wifi. Il punto però è che, come diceva giustamente Alessandro Longo, è molto complicato. Sì, è complicato per chi vuole fare questi servizi, per chi vuole offrirli, per cui si crea una situazione a macchia di leopardo dove sono fortunati i cittadini, solo quelli, che si trovano sotto pubbliche amministrazioni lungimiranti, attive, eccetera, ma questo è un problema, perché insomma lo sviluppo, la diffusione di internet dovrebbe prescindere, no, dalla buona volontà. Sì, anche perché insomma noi passiamo anche un po' per tifosi di internet, e essere tifosi è sempre sciocco dal mio punto di vista, cioè qui c'è una questione di business. È evidente che nel momento in cui tu abiliti un servizio come la rete, consenti alle attività commerciali di utilizzare internet e quindi di inventarsi dei servizi per i clienti, di aumentare il valore aggiunto, di aumentare l'innovatività. Cioè internet non è semplicemente un orpello, diciamola, un qualche cosa che riguarda le persone che hanno più gusto verso le tecnologie. Sei d'accordo da questo punto di vista? Sì, certo, spesso non lo si vede anche da quel punto di vista, ma per esempio restando sulle reti wifi, no? Se una città ha una rete wifi accessibile a tutti, beh, il turismo ne guadagna, il turista che è abituato a trovare internet a portata di mano. Arriva in Italia, si trova una situazione diversa, non capisce. Aspetta che sono stato cazziato al volo, perché il numero di abitanti di Estonia 1,3, Lombardia 9,8, sì, è vero, quindi sono ancora più, però insomma il senso del ragionamento c'era, è un ascoltatore che mi viene sempre in aiuto. Però scusami Alessandro, torniamo al punto, per il turismo abbiamo visto è possibile benissimo aumentare la produttività di un paese, ma io mi ricordo semplicemente nel parco di Sempione di Milano era stato lanciato questo progetto di un internet senza fili, poi non si è visto nulla, ma sono tantissimi progetti in questo senso che poi si sono fermati. Perché? Perché bisognava portare il passaporto, portare i documenti, registrarsi, poi doveva avere una password, insomma diventava tutto molto difficile. Sì, certo, nel frattempo qualche pubblica amministrazione comunque ha trovato dei modi per aggirare questo decreto, e effettivamente sì, adesso ci sono tanti esempi di pubbliche amministrazioni, reti wifi gestite da pubbliche amministrazioni che riescono in qualche modo a offrire un servizio. Certo, fanno i salti mortali, ben inteso Luca, ecco, anche quelli che sono riuscite intelligentemente ad aggirare gli effetti nefasti del decreto comunque si devono... Ma infatti adesso noi andremo a sentire andiamo a sentire Francesco Loida, che è dirigente della provincia di Roma e responsabile del progetto wifi. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Io le leggo un sms che dice: io ho un bar, Alessandro da Senigallia, ho un bar vicino a un giardino pubblico, sarei disposto a mie spese a insomma a fornire il servizio anche a tutta l'area, ma non voglio rischiare di avere la Digos, per di avere insomma la polizia che viene a controllare o che entra nel locale e fa chiudere a causa di una firma mancante oppure di una persona che entra dentro la rete e non è in regola. Questo, allora, è un tema. Questo è un tema, io quasi mi dispiace che non è a Roma, nel senso, perché noi questa cosa la facciamo già con gli esercenti pubblici di Roma, nel senso che noi abbiamo messo su un'architettura particolare che oltre a promuovere ovviamente degli spot che stiamo mettendo noi direttamente nei luoghi pubblici, parchi, piazze eccetera, sono circa 200, sopra i 200 ne abbiamo messi fra Roma, città di Roma e provincia, quindi oltre agli spot che installiamo direttamente noi con connettività che mettiamo nuova, abbiamo realizzato un'architettura insieme al CASPUR, che è un consorzio delle università di Roma, quindi un'architettura fra l'altro è con software tutto open source, è un'architettura che permette a chi ha già connettività, qualsiasi commerciale, di qualsiasi gestore, di attaccare uno dei nostri spot e diventare un punto provincia wifi, quindi questo lo fa attraverso un meccanismo che si chiama l'instaurazione di una VPN, cioè una virtual private network. In sostanza cosa fa? Cede un po' della sua banda in maniera assolutamente sicura dal punto di vista informatico, e dà un po' di questa banda all'hotspot che poi crea una cosiddetta nuvola wifi. A quel punto tutti gli utenti di quel luogo, che possono essere i clienti del bar, quindi è una sorta di rete collaborativa, come per usare un termine alla moda, esattamente questo. Ecco, Loiga, la fermo un secondo perché poi ci spiega anche bene cosa comporta per il cittadino, perché adesso diamo la linea al traffico ma torniamo tra un minuto. Nova Lab 24. 16:46, stiamo parlando di Wi-Fi pubblico con Francesco Loriga, responsabile del progetto Wi-Fi della provincia di Roma. Ci sta spiegando l'architettura, quindi in un certo senso chi ha una connessione può collaborare alla rete, che è gratuita, no? Sì, sì, esattamente questo. Quindi noi o mettiamo i nostri spot su connettività che portiamo noi nuova, dove si può, perché poi qui si apre tutto un altro campo, che è il problema del digital divide, e noi abbiamo problemi a portare una DSL, una connettività in alcuni paesi, ma qui diciamo si apre tutto un altro discorso che non apriamo qui, però dove c'è connettività internet noi mettiamo uno spot e quello automaticamente crea una nuova, ecco, wifi. Qui sull'identificazione come è stato risolto il problema, quindi della Pisano? L'identificazione è il problema, diciamo, creato da questo decreto Pisano del 2005 a cui faceva riferimento Longo, che saluto. Dunque, sostanzialmente il decreto Pisano obbliga a compiere un tipo di registrazione simile a quello che si fa per le SIM telefoniche, sì. Non a caso, perché è nato dopo che già milioni e milioni di cellulari erano stati distribuiti, quindi se avesse fatto qualcosa di diverso probabilmente sarebbe successo un grande dramma. Comunque insomma si è adeguato a quel tipo di registrazione, viene fatta, quindi viene rilasciato un documento nei vari punti del gestore telefonico, no? Allora noi cosa abbiamo pensato, e questo l'abbiamo verificato e poi è stato ufficialmente poi accettato dal Ministero, che scaricare fra virgolette l'onere di questa registrazione sui gestori di cellulari fosse ammissibile. Quindi cosa succede? Che tendenzialmente i nostri operatori, i nostri utenti si trovano alla pagina di registrazione a cui possono accedere anche via internet, compilano i dati principali che sono nome, cognome, codice fiscale, eccetera, e poi fanno una chiamata, cioè dichiarano un numero di cellulare. Perfetto. E con quel cellulare chiamano un quindi numero. Quindi con il cellulare c'è l'identificazione, con il numero di cellulare c'è l'identificazione, quindi si è tutti in regola. Alessandro Longo, vuoi chiedere qualche cosa? Beh sì, volevo capire, insomma, voi avete trovato questo trucco, no? Voi e altri per alleviare il problema, però comunque la Pisano, ma in generale la burocrazia, la normativa italiana non è un po' troppo comunque problematica lo stesso, non mi crea comunque problemi, fastidi, costi extra, eccetera. Prego, Loriga. Sì, eccomi, confermo assolutamente la cosa che diceva Longo, perché oltre al decreto Pisano, che comunque a noi richiede di mettere su un sistema di registrazione e di logging del traffico centralizzato. Ci sono tutta una serie di altri permessi che dobbiamo chiedere per installare uno spot. Vi dico solo che per mettere uno spot normale, in un punto normale, intendendo con questo che non devo andare a intervenire su un palazzo protetto dalle belle arti, è necessario comunque fare una dichiarazione al Ministero in cui vengono dichiarate le coordinate del GPS e una DIA, cioè una dichiarazione di iniziatività simile a quella che si fa quando tanto si porta per un tramezzo dentro casa. Tanto per facilitare. Ecco, però bisogna dire che ci sono altri casi in Italia di amministrazioni comunali che hanno provato a installare spot. Nella scheda di Alessandro Longo si fa un po' una cartina italiana, sentiamo. Immaginiamo la scena, ci sediamo a un tavolo, ordiniamo un caffè latte, un muffin e con il nuovo cellulare dal grande schermo touch cominciamo a navigare, gratis. Bello sì, ma dove? Ci può capitare in uno Starbucks di Praga, in un bistrò di Parigi o in un hotel di Dubai. In Italia, meglio non illudersi. Siamo uno dei paesi evoluti con il minor numero di punti accesso Wi-Fi, circa 4.000, un quinto della Francia. Pochissimi quelli gratuiti. Al solito si paga 3 euro l'ora. La situazione sta migliorando lentamente. Le pubbliche amministrazioni stanno lanciando e potenziando progetti di reti Wi-Fi gratuite. La provincia di Roma ha attivato 200 hotspot Wi-Fi in una sessantina di comuni e arriverà presto a quota 500. Il comune di Venezia punta a 600, mentre ora copre il centro storico, il Lido, i parchi pubblici e nel centro di Mestre. Firenze, Bologna, Genova e altre città hanno reti simili. Maglia nera a Milano. È fermo il progetto di dotarla di 4.000 punti di accesso Wi-Fi gratuiti. Quelli comunali ora sono solo in pochi posti, anche se c'è sempre la promessa di coprire il 25% della città entro l'Expo 2015. Toccherà aspettare e nel frattempo Wi-Fi e caffè. Prendiamoli a Parigi. Allora, Sandro Longo, chiusura ironica e negativa, il nostro tempo però è negativamente scaduto. Io ringrazio Alessandro Longo, ringrazio Francesco Loriga. Noi ci sentiamo lunedì alle 16:30. Grazie.